si chiude un semestre d'oro che segna una netta ripresa delle nostre esportazioni, tanto più in maggio e giugno, ma anche nella prima parte dell'anno, tra l'altro solo parzialmente favorita dal ridimensionamento dell'euro, perché le nostre esportazioni sono cresciute anche in modo significativo nel mercato interno dell'Unione, dove il fattore monetario ovviamente non ha influenza. Però il confronto va fatto ovviamente con la prima parte dello scorso anno, in cui vi erano stati dati peggiori per le nostre esportazioni e per il prodotto interno lordo italiano. Nella seconda parte dell'anno già i dati erano lentamente ma in modo significativo migliorati, e quindi è più difficile fare meglio a fronte di dati che erano comunque migliori. Ma soprattutto quello che ci preoccupa per la seconda parte dell'anno sono i segnali che vengono dagli Stati Uniti e dalla Cina, dai due grandi colossi che sembravano in forte e significativa ripresa, certamente la Cina, ma anche gli Stati Uniti. Ebbene, i dati sull'occupazione americana sono negativi, il che vuol dire che gli incentivi di Obama non hanno raggiunto gli obiettivi che si proponevano, e le borse ne hanno già risentito. Ma anche in Cina le previsioni sulle importazioni cinesi, che avevano in maniera fortissima trainato anche il Made in Italy in Cina, ma così come l'economia dei paesi vicini, segnano qualche rallentamento nella seconda parte dell'anno. Abbiamo a fronte una Germania che invece sembra andare sempre meglio. Quindi queste condizioni internazionali ci inducono alla prudenza per i dati sulla seconda parte dell'anno, dove noi pensiamo di segnare comunque una realtà positiva e di concludere l'anno con circa il 10% di crescita rispetto allo scorso anno, che è quando cresce il commercio mondiale secondo le previsioni del WTO, quindi in linea con la crescita del commercio mondiale. C'è però da dire e da aggiungere che lo scorso anno l'export italiano ha perso oltre il 20%, quindi recuperiamo, ed è già molto, ed è già importante, verosimilmente la metà di quello che perdemmo lo scorso anno. Mi chiedo, può però l'export da solo far crescere in maniera sufficiente il prodotto interno lordo italiano? Evidentemente no, anche perché quest'anno i consumi si stanno ulteriormente riducendo. L'Italia non può crescere soltanto all'estero, è assolutamente necessario rilanciare la crescita interna. Per farlo non servono le elezioni, anzi, le eventuali elezioni anticipate sarebbero estremamente dannose, come far deragliare il treno che ha ripreso a correre. Occorrono le riforme, cioè irrobustire i binari della crescita e mettere maggiore risorse, energia nel treno che corre. Per farlo occorre un patto di legislatura.